crazy ill man rowdy. That's word. Guerra style. Il nero and you like it. Se bisogna crescere per lavorare 40 anni e farsi il mazzo. Quando chi comanda prende tutto senza fare un cazzo. Perché mi sveglio? Perché mi devo alzare? Fra la vita ti toglie ogni cosa in cambio che ti dà. Perché ci sono stronzi come te che parlano e non fanno, che prendono e non danno mai niente indietro. E invece chi è disposto a darti il proprio aiuto si ritrova a piedi scalzi sopra cocci di vetro. Perché non posso fare quello che desidero, ma un uomo che lavora in fabbrica lo chiami libero. Con quale forza ti alzi giorno dopo giorno, pur sapendo che non puoi contare sul resto del mondo. La gente sembra un po' disorientata, indietreggia appena sente la minaccia della pula mano armata. E io rimango a casa in mezzo a pare come queste, mentre cerco una speranza in ciò che faccio, come se esistesse. Vengo dall'entre della paranoia. La mia testa viaggia in mondi che non so descriverti. Vengo dall'entre della paranoia. Ponendomi domande su quali siano i miei limiti. Quella che racconta ogni tratto di miei limiti. Paranoia. Un impulso nella testa che mi ha sempre messo i brividi. La paranoia, la paranoia. Nella paranoia, la paranoia. Nella paranoia, la paranoia. Nella paranoia, la paranoia. Le cose le faccio bene o non le faccio, lo ripeto, guardando il mio labiale allo specchio. È da un po' che ho paranoie dentro in testa. I problemi che si nutrono della mia insicurezza. Cosa farò da grande? Avrò un lavoro fisso. Pensieri alla rinfusa mentre fisso un crocifisso. Per l'ennesima volta mi chiedo se un Dio c'è. Con la sicurezza che se esiste si scorda di me. Mi sento isolato dal mondo, penso e ripenso e crollo. La solitudine sembra mangiarmi ogni secondo, notte e giorno. Ho timore di non essere compreso. Insulti e complimenti alle parole ho dato un giusto peso. Vorrei avere più persone su cui contare. Essere come l'arcobaleno dopo un temporale. Soffro il mal di testa, a testa alta, presto chi mi pesta. Aspetto la serenità dopo questa tempesta. Vengo dal ventre della para.